Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Un raggio che va dalla Terra alla Luna e torna indietro. Ne parleremo fra poco. Benvenuti a Möbius. Ora insieme ascoltiamo i titoli di questa puntata. Dalla Terra alla Luna e ritorno. Un raggio di luce riflesso da specchi ci dice quanto è distante il nostro pianeta con la precisione di un millimetro. La fuga da un predatore è un comportamento essenziale per la sopravvivenza di un animale. Ed è per questo che deve seguire tattiche imprevedibili. Einstein parla italiano. Un nuovo libro racconta le relazioni intense che lo scienziato ebbe con il nostro paese. Visto il primo alone galattico, ci aiuterà a capire meglio l'evoluzione del cosmo. A spasso tra le negazioni e lingue impossibili. Ma il linguaggio esiste? L'uomo di Similaun e il suo DNA. Una ricerca italo-inglese apre nuovi scenari sulla possibilità che sia un nostro antenato. I suicidi fra i contadini indiani hanno raggiunto i 16.000 casi l'anno. Le motivazioni sono varie, ma c'è chi denuncia che la causa siano le coltivazioni di cotone geneticamente modificato. Anche per questa puntata, in apertura, mi collego con Paola Rebusco. Ciao Paola. Ciao, buonasera. A Boston, la nostra corrispondente, e lo facciamo via Skype. Ci stai per parlare del laboratorio più grande del mondo, mi viene da dire, però non è una definizione completamente corretta. Più grande del mondo nel senso che include non solo la Terra, ma anche la Luna. È un laboratorio che va dalla Terra alla Luna. Allora, un po' so di che si tratta, però te lo faccio spiegare e io partirei da una di quelle vecchie spedizioni sulla Luna degli anni degli Apollo americani. Allora, iniziamo dal 21 luglio 1969, quando Buzz Aldrin e Neil Armstrong hanno messo piede sulla Luna. E oltre a mettere piede, hanno anche messo dei riflettori. Dei riflettori, degli specchi, insomma. Degli specchi, va bene. Poi, un'altra spedizione. Sì, ci sono stati l'Apollo 14 e 15 nel 71 e poi l'Unione Sovietica ha mandato la prima missione con dei robot comandati a distanza, il Lunokhod 1 e Lunokhod 2. Vabbè. E tutte queste missioni hanno lasciato degli specchi sulla Luna. Questi specchi sono stati usati anche altre volte, però noi stiamo per parlare di un utilizzo che è avvenuto di recente, però è un po' che si utilizzano, per fare che cosa? È da quasi 40 anni che si utilizzano per misurare la distanza tra la Terra e la Luna. Come si fa? Cioè gli si spara un raggio addosso? Esattamente. Vengono sparate degli impulsi laser da Terra, raggiungono la Luna, si riflettono sugli specchi, tornano a Terra, dove vengono rivelati, e in questo modo si misura quanto tempo ci mettono. E dal tempo si ricava la distanza perché la velocità della luce la conosciamo. Esatto, per avere un'idea il tempo è più o meno 2 secondi. Di andata. Ecco, ma scusa Paola, però è vero che i raggi laser, quando anche li vediamo qui sulla Terra, insomma, restano piuttosto stretti, collimati come si dice, no? Quindi, però da qui alla Luna un raggio così quanto grande diventa? Allora, parliamo di questa missione che è relativamente nuova. Quest'ultima. E partono con un... si chiama Apollo, con molta originalità. Stavolta si sta per Apache Point Observatory Lunar Laser Ranging Operation, perché partono da un telescopio che si chiama appunto Apache Point, situato in New Mexico, e ha un diametro di 3,5 metri. Per cui il raggio di partenza del fascio laser è 3,5 metri. Poi però c'è di mezzo l'atmosfera terrestre, per cui quando raggiunge la Luna il diametro è di quasi 2 chilometri. Però c'è abbastanza intensità luminosa. Certo, al centro di questi 2 chilometri c'è lo specchio, ma deve tornare indietro addirittura. Deve tornare indietro. Quando ritorna sulla Terra copre una superficie dal diametro di 15 chilometri. Per cui effettivamente buona parte della luce che viene spedita si perde lungo il percorso. Riesce a darci una misura di questa intensità debolissima che arriva? Allora, una parte su un quadrilione della luce che viene sparata riesce ad essere riflessa e ritorna a Terra dove viene rivelata. E questa intensità così bassa, beh, qui allora vuol dire che intervengono delle apparecchiature nuovissime, molto sofisticate, riesce ad essere colta? Riesce ad essere colta. Allora, praticamente quello che diciamo è come avere una probabilità su un quadrilione di vincere la lotteria. Un po' tantino, però. Una piccolissima probabilità, esatto. Però cosa fanno i ricercatori? Comprano tantissimi biglietti della lotteria. lanciano 5.000 quadrilioni di fotoni al secondo. Qualcosa resta, tu dici? Esatto, anche se uno su un quadrilione viene perso, ne rimangono comunque a sufficienza per fare le misure. Abbiamo una misura migliore della distanza Terra-Luna? Sì, c'è una precisione. All'inizio di quest'anno hanno raggiunto la precisione di un millimetro, mentre con gli esperimenti precedenti si raggiungeva una precisione massima di 2 centimetri. Sembrerebbe una cosa un po' maniacale, invece ha senso. Perché questo dato è importante? È importante perché non sappiamo se effettivamente la relatività generale sia valida oppure no. Tra le varie cose sappiamo che l'universo si espande, accelerato, e si parla di una misteriosa energia oscura che accelera l'espansione dell'universo. In realtà ci sono tante teorie che dicono che non c'è nessuna energia oscura, ma c'è una relatività generale modificata che spiegherebbe l'accelerazione dell'universo. E quindi fare delle misure molto precise sulla distanza Terra-Luna può dare delle informazioni sull'accelerazione dell'universo. E tra l'altro noi fra poco parliamo proprio di Albert Einstein. Va bene Paola, grazie, a presto. Ciao, alla prossima. Nella vita delle specie animali ci sono alcuni comportamenti che si possono giustamente definire fondamentali. Riprodursi o alimentarsi. Credo che non ci venga facile invece immaginare che un altro comportamento di assoluto rilievo sia fuggire, la fuga dal predatore. E la storia della vita è una storia di prede e predatori. Per parlare dell'arte della fuga, e quella di Bach, seppur sublime, è certamente meno importante, ci faremo guidare da Paolo Domenici. Buonasera Domenici. Buonasera. Ricercatore al CNR di Oristano presso l'Istituto per l'Ambiente Marino e Costiero. Allora Domenici, ci spieghi in cosa consiste quest'arte della fuga? Perché bisogna essere bravi a fuggire? Diciamo che prima di parlare della fuga faccio un piccolo esempio contrario. È chiaro che un qualsiasi animale attratto dal cibo in una certa posizione gli conviene dirigersi direttamente verso il punto in cui c'è il cibo. È molto più complicato anche a livello teorico capire o prevedere cosa dovrebbe fare un animale invece che sia stato stimolato negativamente, quindi da un predatore che si trovi in un certo punto dello spazio, qual è la direzione di fuga ideale per sfuggire a questo predatore. Perché sì, benché ci possano essere, ci sono dei modelli matematici che fanno capire quale può essere la direzione ottimale, che dipende dalle velocità relative della preda e del predatore, questa direzione potenziale ottimale, se è una sola e sempre quella, diventa prevedibile. Lei dice, se il predatore riesce a capire che la sua preda tipica ha un certo modo standard di fuggire, ahimè, lui esatto, si sintonizza su quella modalità e a quel punto ne sbaglia pochi di colpi. Esatto, sia a livello di predatori solitari, ma forse ancora di più predatori che, e ce ne sono tantissimi in natura, a partire dai pesci fino a mammiferi marini, che cacciano in gruppo. Quindi potrebbe benissimo ipotizzare un predatore che attacca una preda e intanto un altro predatore o altri che l'aspettano laddove si sa che normalmente fugge. Oh, ecco Domenici, voi lavorate sull'ambiente marino e costiero, però, e lei in particolare lavora su questi problemi preda, predatore e fuga, però noi arriviamo a lei perché la notizia, per come ci è giunta, ci parla di vostre ricerche però sugli scarafaggi. Come mai? Esatto, diciamo che da qualche anno ci occupiamo di fuga in diversi animali, soprattutto marini e acquatici. Però il modello dello scarafaggio è un animale che si studia da più di 30 anni e si pensava di sapere molto su cosa fa nei casi di attacchi di predatori, ed è stato anche utilizzato come modello per lo studio della risposta di fuga in altri animali. Il problema è che anche nello scarafaggio non era così ovvio a cosa facessero, cioè si pensava che ci fosse una risposta in direzione di allontanamento dal predatore, ma con un'alta variabilità, ed è quello di cui parlavo prima, dell'imprevedibilità. Ma come era generata questa alta variabilità non era chiaro, sembrava semplicemente un po' di caos, di noise, sì, intorno a questa traiettoria ottimale. E invece cosa avete scoperto? In realtà noi abbiamo scoperto che non è così, che la metodologia che hanno questi animali per generare imprevedibilità non è di sfuggire con caos generato in maniera random, ma utilizzando proprio un numero definito di traiettorie preferenziali, che nel caso degli scarafaggi le principali sono 4, che sono comprese tra i 90 e i 180 gradi rispetto all'attacco del predatore. Ok, prende queste direzioni e poi sceglie tra queste, alternandole spesso. Diciamo in maniera imprevedibile, cioè se noi prendiamo uno stesso individuo e lo attacchiamo 5 volte di seguito o 10 volte di seguito, la prima volta potrebbe prendere la traiettoria a 90 gradi, la seconda a 120, la terza di nuovo a 90, la quarta a 180, e questo avviene in una maniera che per adesso è ancora, nei nostri studi, rimane ancora imprevedibile e probabilmente è imprevedibile, generata in un a livello neuronale in una maniera che noi e probabilmente anche i predatori non possiamo prevedere. Ecco, ma se ci proiettassimo invece nei suoi ambienti, che sono quelli dei pesci, nel mare c'è un grande predatore continuo, no? Lì per esempio quali animali potreste incominciare ad applicare i vostri studi? Sì, ad esempio noi già con studi preliminari abbiamo visto che i pesci in situazioni particolari che si creano dovuto anche all'aumento dell'eutrofizzazione, quindi all'abbassamento del livello di ossigeno nell'acqua, i pesci fanno una cosa che non va bene rispetto all'attacco di un predatore quando sono in queste situazioni di bassa ossigenazione. Cosa fanno? Praticamente hanno una risposta di fuga aleatoria, cioè in 50% dei casi rispondono addirittura verso il predatore, che è l'ultima cosa che una preda può voler fare. Perché fanno questo? Probabilmente perché in situazioni di basso livello di ossigeno il loro cervello, i loro sensi funzionano meno bene e quindi capiscono che c'è un attacco, ma non capiscono da che direzione, e quindi in certi casi gli capita anche di andare proprio nella bocca del predatore. Certo, nel senso che interessandosi di questioni ambientali allora può diventare estremamente interessante capire quando questa capacità di fuggire viene a mancare, viene alterata, perché è un indicatore di una grave alterazione dell'ambiente. Esattamente, può essere utilizzata esattamente come indicatore, è proprio il termine giusto, però per utilizzare questo tipo di analisi come indicatore dobbiamo avere una specie di blueprint di quello che fanno in situazioni normali. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Spero siate pronti perché adesso c'è il nostro quiz scientifico. Ecco l'interrogativo di oggi. Gli accoppiamenti fra cani danno luogo a nuovi cani di tutti i tipi, dimensioni, colori, forme. Come mai non avviene la stessa cosa con i gatti? Ci sono un po' di varianti sul pelo e sono sempre molto simili. Poi la forma del gatto è sostanzialmente sempre la stessa. Allora, tre risposte. La prima, il gatto è entrato nella sfera degli animali domestici da relativamente pochi anni, ovvero secoli, quindi è più selvatico, è più puro, mentre il cane è da noi maneggiato, usiamo pure questo termine, da decine di migliaia di anni. C'è un fattore tempo, insomma, ci scriverete tempo. Seconda possibilità, il gatto è geneticamente diverso dal cane. La genetica è una cosa complessa e quindi con tante modalità diverse al suo interno. Per quale ragione i cani e i gatti dovrebbero essere uguali, insomma, dal punto di vista della riproduzione? Ci scriverete genetica. Terza e ultima possibilità. Noi chiamiamo cane una specie che ha come sue caratteristiche di fondo la grande diversità. Pensate al chihuahua che sta in una mano e all'alano che pesa 80 kg. Per i gatti non c'è niente del genere. Ci scriverete diversità. Dove? Con il solito SMS ci scriverete 349-238-6666. Il libro in premio questa settimana è Einstein parla italiano, itinerari e polemiche. Gli autori sono Sandra Linguerri e Raffaella Simini, edito dalle edizioni Pendragon, e parleremo di Einstein proprio fra poco. In collaborazione con IBS.it. Tanti scienziati hanno sempre amato la musica di Mozart, neanche lui la amava. Lui, lo scienziato per definizione, ovvero Albert Einstein, per questo servizio su Einstein e le sue relazioni con l'Italia, Chiara Albicocco ha scelto di partire proprio con Mozart. morì a Princeton il 18 aprile del 1955. Albert Einstein, il fisico che a soli 26 anni mutò il modo di interpretare la fisica, cioè le leggi che regolano tutte le cose e l'universo. Durante la commemorazione della morte, che si tenne il 17 dicembre del 1955 al MacArthur Theater di Princeton, appunto, fu eseguito questo concerto di Mozart per pianoforte e orchestra che ci sta accompagnando in sottofondo. È il numero 26 in re maggiore, conosciuto più correntemente come il concerto dell'incoronazione. Ecco, da qui parto per parlarvi della vita di questo fisico tedesco di religione ebrea che fu costretto a trasferirsi a causa delle persecuzioni antisemite che imperversavano in Germania in quegli anni. Andò in Francia, in Belgio, in Gran Bretagna e infine negli Stati Uniti, dove rimase fino alla morte. A proposito, ora vi faccio ascoltare la sua voce originale, che in un inglese con un'inflessione smaccatamente tedesca spiega la teoria della relatività. It followed from the special theory of relativity. Ecco, ovviamente la qualità dell'audio che stiamo ascoltando non è delle migliori, data l'età, ma in questo audio il fisico descrive la sua teoria più celebre, quella della relatività, in cui spiega appunto che la massa e l'energia sono entrambe, ma in maniera differente, manifestazioni della stessa cosa. Un concetto in qualche modo poco familiare per una mente comune. E prosegue, l'equazione E uguale a m per c al quadrato, nella quale l'energia è uguale alla massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce, dimostra che da una piccolissima massa si può ottenere una grande quantità di energia, e viceversa. Torniamo ad oggi, ora voglio parlarvi di un aspetto particolare, poco conosciuto della vita del grande genio, il suo attaccamento al nostro paese, all'Italia. Questo è il tema che sviluppa un libro appena uscito in libreria per le edizioni Pendragon. Si intitola Einstein parla italiano, itinerari e polemiche. È scritto a quattro mani da Sandra Linguerri e Raffaella Simili, due docenti di storia della scienza dell'Università di Bologna. Ecco, è proprio la professoressa Simili che ci spiega perché Einstein fosse così legato al nostro paese, e pensate che trascorse addirittura nella gioventù un anno intero a Pavia, e dove firmò il suo primo articolo scientifico. Scrisse moltissime lettere in italiano e nel 1921 ottenne anche 3 giorni di conferenze sulla relatività proprio a Bologna, invitato dal matematico Federico Enriquez. Ma ora sentiamo la professoressa Simili. Einstein fu invitato da Federico Enriquez a partire dagli anni 20 e iniziò una fitta corrispondenza per preparare questo evento. Ricordiamoci che Einstein era stato sì da adolescente in Italia, per questo parlava italiano, ma non vi aveva più fatto ritorno. Pertanto questa visita rappresentò non solo un successo, diciamo, per la comunità intellettuale bolognese, ma anche per la città, che partecipò vivamente a questo uditorio, tant'è che i giornali dissero che Einstein sembrava più un divo che uno scienziato. Al tempo stesso, ecco, ricordiamoci che l'unica città toccata da Einstein nel suo peregrinare di conferenze in molti paesi venne solo a Bologna. Venne a Bologna nelle giornate 22, 26 e 28 ottobre del 1921, tenne queste conferenze in italiano, per l'appunto, che sapeva parlare bene, nonostante ironicamente dicesse che il suo italiano era un italiano eucrauti, e queste conferenze ebbero un successo clamoroso, sia, ripeto, per l'intera città, quindi per un pubblico non specialista, sulla stampa. L'altra città che Einstein toccò fu Padova, perché portò l'omaggio a Gregorio Ricci Curbastro, che era stato il creatore di quel calcolo tensoriale che a lui poi servì moltissimo per elaborare la teoria della relatività speciale. Non tutti sanno che Einstein si spese anche in Italia in difesa degli ebrei e di quanti si schierassero contro il regime fascista, e nel 1931 inviò una lettera al ministro Alfredo Rocco in sostegno dei colleghi italiani chiamati a giurare fedeltà al regime, pena la perdita della cattedra. Ecco, sentiamo in proposito la professoressa Simili. Nel 1931 venne richiesto ai professori universitari, ma anche ad altri funzionari pubblici in maniera differente, di prestare giuramento al regime fascista, quindi di giurare fedeltà al regime fascista, pena appunto la decadenza dal loro posto di lavoro. Questo mise in subbuglio tutta la comunità intellettuale americana, italiana ed europea, e molti furono gli interventi per cercare di evitare, diciamo, questo insulto alla comunità intellettuale. Einstein, che aveva conosciuto Rocco in un comitato internazionale per la cooperazione intellettuale, col quale non era mai andato d'accordo, proprio perché era espressione ministro del governo fascista, scrisse direttamente una lettera al ministro Rocco. Il ministro Rocco non rispose, fece rispondere dal suo segretario, ma la lettera di Einstein era proprio fondata sul fatto che si possono avere idee diverse, certo, sul piano politico, ma vi sono dei limiti, dei confini oltre i quali non si va. Questa ora la lettera che Einstein scrisse al ministro Rocco, ministro del governo Mussolini. Egregio collega, due dei più autorevoli e stimati uomini di scienza italiani, angosciati, si sono rivolti a me e mi pregano di scriverle al fine di impedirle, se è possibile, un duro provvedimento che minaccia gli studiosi italiani. Si tratta di impedire il giuramento di fedeltà al regime fascista. La mia preghiera è che lei consigli il signor Mussolini di risparmiare al fiore dell'intelletto italiano un'umiliazione simile. Per quanto diverse possano essere le nostre convinzioni politiche, io so che v'è un punto fondamentale che ci unisce. Entrambi riconosciamo e ammiriamo lo sviluppo intellettuale europeo come il bene più alto. Esso si fonda sulla libertà di pensiero e di insegnamento e sul principio che la ricerca della verità deve precedere ogni altro fine. Nella speranza che la mia preghiera trovi la sua benevola comprensione, rimango con cordiali saluti. Suo, Albert Einstein. Purtroppo il tentativo di Einstein non ebbe l'effetto che lui si aspettava, e i professori erano circa 1300, la maggioranza votò, si può anche capire, non era facile perdere il lavoro da un giorno all'altro, per di più diventare un pericoloso antifascista, nemico del regime. Furono soltanto 12 coloro che si rifiutarono di giurare, persero il loro posto di lavoro e furono per l'appunto considerati nemici da parte del regime, però sicuramente amici di Einstein. In un luogo dell'universo molto lontano da noi deve essere accaduto un fatto sensazionale, molto tempo fa, e non solo, molto lontano. Questo evento ha portato alla definizione di alone galattico, e ve ne parla Maurizio Menis. Dall'ammasso di galassie Hubble 521 a 4 miliardi di anni luce da noi ci arriva l'eco lontano di un grande impatto cosmico. E questo è il risultato di una ricerca che vede un team di ricercatori italiani in prima fila. Segnali dall'universo, per la verità, ne riceviamo tanti sotto varie forme, ma non tutti li riusciamo a percepire. Come esseri umani, con la nostra vista e il nostro udito, percepiamo solo certe gamme di suoni e di radiazioni luminose. E anche se grazie alle macchine queste gamme si sono ampliate moltissimo, restano ancora punti bui, regioni inesplorate. Proprio in una di queste regioni, parliamo delle onde radio più lunghe di un metro, quindi di onde radio a bassa frequenza, si trova il segnale individuato per la prima volta dai ricercatori dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, grazie alle antenne del Giant Microwave Radio Telescope in India, lo strumento che ad oggi è più sensibile nella banda delle onde radio lunghe. Si tratta quindi di un'emissione radio molto debole generata da questo ammasso di galassie. Gli ammassi di galassie sono strutture che raggruppano migliaia di galassie nello spazio di alcune decine di milioni di anni luce e sono le più grandi strutture dell'universo. L'emissione in particolare proviene dal gas che riempie lo spazio tra le galassie e circonda l'ammasso, formando un alone quindi. I ricercatori dell'INAF, per la verità, non sono sorpresi, anzi cercavano esattamente questo tipo di emissione che, secondo i loro modelli fisici, è quanto rimane dell'energia prodotta dallo scontro di ammassi di galassie più piccoli. È così, infatti, che si sono formati i grandi ammassi di galassie che possiamo osservare oggi nel cielo, ovvero attraverso successivi impatti e fusioni di oggetti più piccoli. Ma sentiamo dalla voce di Gianfranco Brunetti, ricercatore dell'INAF e primo autore dell'articolo uscito recentemente su Nature, con cui insomma la notizia è stata data ufficialmente, quali prospettive si aprono. Che cosa insomma gli scienziati si aspettano di capire grazie all'apertura di questa nuova finestra sull'universo. Noi quello che ci aspettiamo è che un gran numero, migliaia di oggetti di questi fenomeni saranno visibili con i nuovi radiotelescopi nuova generazione, che sono il radiotelescopio in Europa, l'OFAR, e quello negli Stati Uniti, LWA, che nel giro di 2 o 3 anni cominceranno probabilmente a scoprire migliaia di questi oggetti. E questo apre delle frontiere nuove. Da una parte ci permette di mappare, di capire quando gli ammassi fanno scontri, quando si formano, quando si aggregano, appunto perché poiché questi fenomeni sono connessi, diciamo, questa emissione viene prodotta durante lo scontro tra gli ammassi, possiamo capire quali ammassi stanno facendo questo scontro e contarli, mapparli nel nostro universo. E questo ci permetterà quindi di seguire la loro formazione e la loro evoluzione nel tempo, quindi di capire le leggi che governano, diciamo, l'universo su grande scala. E la seconda cosa è ci permetterà di capire meglio qual è la condizione fisica del gas intergalattico. Il gas intergalattico è quello che riempie gli spazi fra le galassie all'interno degli ammassi di galassie. Il target in questo caso è di comprendere come l'energia che viene generata, dissipata durante lo scontro fra questi ammassi venga poi canalizzata nell'accelerare le particelle che poi emettono queste radiazioni che vediamo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Maurizio Meris, buonasera. Buonasera Federico. Tu ci hai fatto scrivere nei titoli: il linguaggio non esiste, essendo io qua che ti parlo, mi sembra un'immane sciocchezza, credo che ci sia qualcosa di più sottile. Sì, e credo di poterti rispondere con una citazione dai Viaggi di Gulliver. C'è un passo in cui ci sono dei vecchi saggi che se ne vanno in giro con dei grandi sacchi pieni di oggetti sulle spalle, perché hanno deciso di abolire il linguaggio parlato e sono convinti che il linguaggio sia una semplice convenzione per cui ad ogni oggetto corrisponde una parola, per cui pensano di comunicare così, mostrandosi degli oggetti. Ho capito. Una grandissima stupidata, questi sacchi devono essere abbastanza pesanti, ma a parte questo, viene fuori subito una domanda interessante. Come faccio a negare? Come faccio ad utilizzare la negazione, che è fondamentale nel linguaggio, se io ti mostro un oggetto, se io ti mostro una mela? Come faccio a esprimere il concetto "questa non è una mela"? Ho fatto questa domanda ad Andrea Moro, che è un linguista dell'Università Vita Salute di Pavia, esperto di questa questione. Questa è una domanda molto importante, cioè quanto c'è di realtà nel linguaggio e quanto invece il linguaggio è qualcosa di più. Certamente noi lo vediamo nella negazione, questo è una cosa molto netta, molto diretta. Non c'è il non essere bianco, c'è l'essere rosso, verde, giallo, eccetera. Eppure io quando parlo posso dire il muro non è bianco. È evidente che la negazione, se c'è, è una proprietà formale del nostro linguaggio che però in qualche modo si rifà alla realtà. Detto questo, chiaramente la negazione non è l'unico caso in cui tra realtà e mondo le situazioni non combacia perfettamente. Si sa, ad esempio, questo è molto interessante, che quando i bambini imparano a parlare, non sorprendentemente, all'inizio per lo più imparano nomi, imparano soltanto dopo i verbi. Perché? Che cosa c'è in un verbo? Perché un verbo è un fatto relazionale e le relazioni in un certo qual modo sono presupposte, le uso per interpretare quello che sta accadendo. Tra convincere e persuadere ci sono delle differenze, tra convincere e obbligare ci sono delle differenze strane e sostanziali. Faccio un esempio: se io le dico "ti prometto di partire", parto io, non parte lei, ma se dico "ti ordino di partire", parte lei, non parto io. Come fa un bambino ad apprendere queste regole che noi stessi faremo fatica a interpretare? Ecco, la negazione, così come altre proprietà, costituiscono un cuore misterioso del linguaggio che fa vedere come il linguaggio non è totalmente riducibile alle cose del mondo. Quindi a dare un nome agli oggetti. Ecco, infatti il linguaggio sta assumendo una posizione sempre più centrale, forse assieme alla musica, come chiave di lettura di come funziona, mettiamola così, il nostro cervello e da un lato di ciò che ci distingue come specie. Diciamo una cosa, lei ne ha parlato poco fa, esistono linguaggi possibili ed esistono linguaggi impossibili. Questa è una prima forse manifestazione di questo discorso che stiamo facendo, però ce lo spiega un pochettino. Io lo chiamerei l'esperimento tedesco. Sì, dunque si tratta fondamentalmente di una domanda che sta al cuore della polemica linguistica del Novecento. Nella prima metà del Novecento il linguaggio veniva visto come una convenzione culturale ed arbitraria. Spesso i filosofi si riferiscono alla regola linguistica come il prototipo della convenzione, se non che i linguisti si accorgono che comparando un campione significativo delle lingue del mondo, alcune regole non ci sono mai. Alcune regole sintattiche, guardi, ne faccio un esempio, non ci sono mai regole che dicono inverti l'ordine delle parole di una frase affermativa. Non esistono regole, pur essendo semplici. Allora l'esperimento che ci è venuto in mente con un gruppo di ricercatori del San Raffaele con il quale io lavoro e collaboro è stato proprio un incontro tra linguisti e neuropsicologi e mi è venuto in mente di costruire una lingua che comprendesse delle regole impossibili e di andare a vedere se i soggetti la prendevano o meno. Lei giustamente l'ha chiamato l'esperimento tedesco perché siamo ricorsi a un gruppo di parlanti nativi del tedesco che vivevano nella ex DDR in un periodo in cui non era facile essere sottoposti a lingue straniere. Al giorno d'oggi un ragazzino che parla italiano comunque sente le canzoni in inglese, comunque sente i film sottotitolati. Quindi, allora, in quel caso cosa abbiamo fatto? Al gruppo di tedeschi abbiamo insegnato l'italiano con dentro delle regole nascoste di tipo impossibile. Queste persone hanno dato questo risultato strabiliante. Apprendevano entrambe le regole, ma quando apprendevano le regole, che chiamiamo per convenzione impossibili, non utilizzavano quei circuiti preferenziali che il cervello utilizza per il linguaggio. Il cervello, in altre parole, smistava inconsapevolmente dal parlante il tipo di regola e faceva trattare dalle zone tipiche del linguaggio soltanto le regole possibili. Questa è una risposta clamorosa a coloro che pensano che il linguaggio sia soltanto un insieme di convenzioni, perché non ci può essere convenzione su ciò che non sappiamo neanche che esiste. Ecco, io chiuderei con una ultima domanda che è stata un po' la conclusione, forse provocatoria, di questo incontro di oggi, cioè che forse noi non abbiamo capito niente del linguaggio e forse oggi proprio questi strumenti a cui lei faceva riferimento, stiamo parlando della risonanza funzionale, quindi strumenti che riescono a visualizzare quali aree del cervello si stanno attivando a fronte di certe funzioni o stimoli, forse sta venendo fuori questo. Però guardi, a mio parere lei ha già detto molto bene come stanno le cose. La mia sensazione è che più andiamo avanti e più ci rendiamo conto di sapere pochissimo. Ma questo non è soltanto un vezzo filosofico socratico per dire che l'uomo è solo quando non sa che sa. È veramente la realtà delle cose. Le descrizioni che noi abbiamo delle grammatiche sono incommensurabilmente più complesse rispetto a quello che riusciamo a vedere con queste macchine. Ad esempio, se prendiamo una qualsiasi grammatica normale che un bambino acquista per imparare l'inglese nelle medie, quel tipo di complessità non riusciamo assolutamente a vederla con una di queste macchine. Detto questo, capire che la situazione è complessa non vuol dire non saperne qualcosa di più. Pochissimo, ma qualcosa di più sappiamo. E la cosa principale che noi sappiamo è che non esiste un'arbitrarietà generale della forma delle grammatiche, ma che la forma di una grammatica in qualche modo è una conseguenza della biologia del cervello, del genoma della nostra specie. Forse un altro modo per dire che la domanda chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo può essere riformulata. Cosa parliamo, cosa parlavamo e cosa parleremo. La nostra trasmissione ogni tanto incontra Ötzi, anzi che sarebbe meglio chiamarlo con la sua definizione, insomma quella un po' più importante, l'uomo di Similaun. Barbara Galavotti è qui con me questa sera, ciao Barbara. Ciao Federico. E tra l'altro finiamo sempre per parlare io e te di questo personaggio assolutamente simpatico. Io non so se qualcuno non sa, non si ricorda di chi è Ötzi, però insomma per correttezza ricordiamolo. Beh sì, Ötzi è forse la più famosa mummia, sicuramente la più famosa mummia italiana, è stata ritrovata nel 1991 a 3200 metri di quota, era nella zona del ghiacciaio del Similaun, delle Alpi Venoste, e le Alpi Venoste in tedesco si chiamano Ötztaler, da qui il soprannome Ötzi. Da qui viene fuori Ötzi. Senti Barbara, facciamo una rapida scheda biomedica, quanto era alto? Dunque, sappiamo che era alto, 1,60 m, pesava circa 50 kg, sappiamo anche che portava 38 di scarpe, ecco, perché è praticamente la mummia meglio studiata, una delle mummie meglio studiate del pianeta. E tra l'altro questo significa che per la sua epoca, circa 5.800 anni fa, era un uomo medio. Era un uomo medio. Dunque, intorno a questa mummia e su questa mummia sono in corso da tempo un sacco di studi di diverso tipo, insomma da quelli antropologici che si sono concentrati sugli oggetti che aveva sul suo corpo, ma anche quelli appunto di tipo biologico. Mi pare che al centro delle cose di cui ci devi parlare c'è il DNA mitocondriale. Vogliamo dare una definizione di questo particolare e importantissimo aspetto del DNA? Sì, il DNA mitocondriale è in assoluto probabilmente il DNA più amato dagli studiosi che cercano di risalire all'evoluzione degli organismi, perché è un DNA molto particolare, non si trova nel nucleo come tutto il resto del nostro DNA, ma in degli organelli, si chiamano mitocondri appunto. È molto piccolo, viene ereditato solo per via materna, quindi la madre lo trasmette alle figlie e se le figlie hanno solo figli maschi la linea si estingue e ha un tasso di mutazione, cioè varia nel tempo, con una frequenza che è molto costante, quindi in un certo senso costituisce un orologio biologico perfetto per datare i reperti antichi. E a partire da questo DNA si è lavorato su Oetzli. Tu hai un ospite che hai intervistato, di chi si tratta? Sì, il nostro ospite è Luca Ermini, che è un giovane ricercatore italiano, attualmente si trova all'Università inglese di Newcastle ed è il primo autore di un articolo che riguarda uno studio che è cominciato un annetto fa, che effettivamente ha visto lavorare insieme ricercatori di Camerino, del CNR di Milano e dell'Università inglese di Leeds ed è stata pubblicata adesso su Current Biology. Immagino che gli avrei fatto una prima domanda, che cosa gli hai chiesto? Beh, gli ho chiesto perché i risultati sul DNA mitocondriale di Oetzli sono stati per loro sorprendenti, in particolare perché ritengono che non appartenga a nessuno dei gruppi di DNA mitocondriale presenti oggi nelle popolazioni che esistono in Europa. Bene, il DNA mitocondriale, vorrei precisare, il DNA mitocondriale si trasmette e quindi si eredita solo per via materna. Per cui, in parole molto semplici, può capitare che un'ipotetica coppia di genitori abbia una sola prole di sesso maschile e quindi in questo caso quella prole non potrà più trasmettere il DNA mitocondriale. Ed è ciò proprio che potrebbe essere accaduto al ramo di Oetzli, cui la linea femminile delle madri e delle sorelle a un certo punto potrebbe essersi estinta. E questo, risalendo Oetzli circa 5.300 anni fa, dovrebbe essere successo negli ultimi 5.000 anni. E c'è qualcosa di sorprendente in questo fatto, cioè nel fatto che tutto sommato tutte le donne della famiglia di Oetzli a un certo punto non abbiano più avuto figlie femmine che si sono tramandate fino a noi? Quello che è veramente sorprendente in questo fatto è un discorso più che altro di origine evoluzionistica. Infatti si pensava che il tasso di estinzione delle discendenze mitocondriali fosse piuttosto basso. Però a questo punto noi, facendo riferimento ai nostri risultati, dovremmo ripensare enormemente a questo concetto. Vi vorrei ricordare a tal proposito che le prime due sequenze complete di DNA mitocondriale di Homo sapiens, una è la sequenza di Oetzli, la nostra sequenza, l'altra è di una mummia eschimese risalente a circa 3.000 anni fa. Bene, entrambe le sequenze hanno mostrato una probabile interruzione della linea mitocondriale femminile. Quindi o siamo stati molto sfortunati a prendere proprio due mummie che hanno una discendenza femminile estinta, oppure questo fatto è abbastanza comune. Personalmente credo che sia molto comune questo fatto, sì. A questo punto credo che sia molto facile che una discendenza possa essersi persa nel corso dell'evoluzione. Questa cosa può avere delle ripercussioni interessanti su temi molto dibattuti, come per esempio l'eterna domanda se c'è stato mai un incrocio fra un uomo di Neanderthal e un Homo sapiens. Questa è una questione veramente dibattuta. Personalmente io credo che innanzitutto la sequenza del DNA mitocondriale dell'uomo di Neanderthal è completamente diversa dalle sequenze di sapiens delle popolazioni attuali e quindi basandosi su questo fatto è esclusa ogni possibile parentela tra sapiens e neandertaliani. Però, come è accaduto al ramo di Oetzli, in cui la discendenza mitocondriale sembra essere estinta e quindi non sopravvissuta tra le popolazioni attuali, teoricamente anche le discendenze tra unioni tra Neanderthal e Sapiens potrebbero essersi estinte nel corso del tempo. Però vorrei sottolineare che se ipoteticamente c'è stata un'unione tra un neandertaliano e un Sapiens, è importante fare una distinzione di sessi. Se c'è stata un'unione tra un maschio neandertaliano e una femmina di Sapiens, la prole avrà ereditato solo il DNA mitocondriale di Sapiens e in questo caso l'informazione sarebbe comunque andata persa, l'informazione di unione. Un discorso diverso potrebbe essere fatto se c'è stata un'unione tra un maschio di Sapiens e una femmina neandertaliana, dove a questo punto davvero la discendenza mitocondriale potrebbe essersi estinta. La vostra arma vincente è stato l'utilizzo di una tecnica per studiare il DNA innovativa, molto veloce. Ora a cosa pensate di applicarla? Sì, allora innanzitutto questa tecnica di sequenziamento del DNA mitocondriale sarà possibile utilizzarla non solo per ulteriori studi sulla mummia di Ötzi, ma anche su studi di altre mummie. In futuro la nostra idea è di ricorrere nuovamente a questa tecnica per sondare la presenza di altri tipi di DNA, e parlo di DNA batterico, fungino, animale o vegetale, all'interno dei residui alimentari dell'intestino di Ötzi. Ma uno dei nostri scopi maggiori è quello di selezionare il DNA genomico, il DNA nucleare, il DNA cromosomico. Idealmente, infatti, potremmo portare alla luce presenze del cromosoma Y, di Ötzi, e questo ci permetterà di tracciare anche la discendenza paterna. Ma questo qua è un lavoro che richiederà molto tempo e soprattutto molti investimenti finanziari. Grazie Luca Ermini, buonasera. Grazie mille. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz. Ve lo ricordate come mai i cani si accoppiano e vengono fuori le forme più diverse? E questo non vale per i gatti? Bene, non dobbiamo pensare che il piccolissimo chihuahua e l'alano da 90 kg siano animali sempre esistiti. Né si deve pensare che la genetica sia una specie di lotteria. È complessa, ma ha regole molto precise che riguardano tutte le specie. Dunque, la risposta giusta è quella che ci coinvolge noi umani come alchimisti, ed è proprio il caso di dirlo, verso gatti e cani. I cani discendono tutti, badate, dal lupo, ma da decine di migliaia di anni essi vivono a contatto con noi e li abbiamo fatti accoppiare nei modi più diversi e in gran quantità. Col tempo, partendo da un esemplare con un'orecchia un po' lunga che si accoppia con un altro che pure lui ce l'ha lunga l'orecchia, e via di questo passo si arriva al cocker. Il gatto invece è domesticato da un migliaio di anni, forse qualcosa di più. Insomma, questo per dire che nel 10.000 probabilmente avremo dei gatti da 80 kg. E altro che sabbietti in bagno, a quel punto. C'è una notizia che arriva dall'India ed è certamente drammatica, ma anche avvolta, per alcuni versi, da un certo mistero. Ascoltate Barbara Gallavotti. Partiamo da un fatto tristissimo, l'alta incidenza di suicidi fra i contadini indiani. Le cifre oscillano, ma si parla anche di 16.000 casi l'anno. Ebbene, con insistenza, negli ultimi anni queste morti sono state messe in relazione con l'introduzione in India di coltivazioni di cotone geneticamente modificato. Non renderebbe a sufficienza e porterebbe alla disperazione i coltivatori. Ora però un organismo internazionale impegnato nella lotta contro la fame, si chiama International Food Policy Research Institute, ha svolto uno studio e la situazione che ne emerge è molto più complessa. Proviamo a capirla con Roberto De Fez, genetista del CNR di Napoli, con il quale abbiamo già discusso in passato di OGM. Buonasera. Buonasera. Cerchiamo di inquadrare il problema. In India, a partire dal 2002, sono state introdotte gradualmente coltivazioni di cotone geneticamente modificato. Era modificato per resistere agli attacchi dei parassiti. Perché si è sentita questa esigenza? Sostanzialmente perché l'India era il terzo produttore al mondo di cotone, ma era il 70° per quel che riguarda la resa per ettaro. C'erano grandi coltivazioni ma molto poco produttive. Inoltre addirittura il 45% di tutti i pesticidi utilizzati in India venivano utilizzati appunto per essere sparsi sul cotone. Quindi diciamo un impatto ambientale davvero enorme sia sulle coltivazioni ma sia sugli esseri umani. Che naturalmente non utilizzavano particolari protezioni nello spazio. Ovviamente no. E che effetti ha avuto l'introduzione del cotone OGM? Ha avuto un enorme successo, sono stati abbattuti appunto l'uso di pesticidi nelle regioni dove veniva coltivato il cotone BT e si è avuto un fortissimo aumento della produttività per ettaro, si è addirittura raddoppiato nel giro di 5 anni la quantità di chilogrammi di cotone prodotto per ettaro in India. Quindi certamente c'è stato un grande vantaggio per i coltivatori indiani, tant'è vero che in 5 anni è aumentata di 100 volte la superficie dedicata a cotone transgenico in India. Ricordiamo che il cotone ha un ruolo abbastanza cruciale nell'economia indiana. Tra coltivatori e persone che lo lavorano si calcola che dia occupazione a 60 milioni di persone. Però ci sono questi dati sui suicidi che pesano. Di cosa si tratta? Questa è stata un'ipotesi molto propagandata in Italia, soprattutto da Vandana Shiva, che ha avuto un grande ruolo mediatico da questo punto di vista e che ha diffuso a varie mandate l'idea che oltre 100.000 contadini indiani si erano suicidati per i danni causati dai debiti causati da cattivi raccolti di cotone BT. Questo secondo me è esattamente il contrario di quello che emerge dallo studio dell'ISPRI, che dice secondo me cose molto diverse da queste. Ci riassume cosa dice questo studio, che ricordo i nostri ascoltatori, se volessero vederlo possono scaricarlo dal nostro sito www.moebiusonline.eu. Ci sono circa tra i 100 e i 120.000 suicidi in India tutti gli anni, negli ultimi 10 anni. E negli ultimi 10 anni il numero dei contadini che si suicidano varia tra i 15 e le 17.000 unità l'anno. Questo significa che non c'è nessuna variazione nei 5 anni precedenti all'introduzione del cotone transgenico e nei 5 anni successivi all'introduzione del cotone transgenico. E analizzando nel dettaglio le regioni dell'India dove più forte è stata la coltivazione, all'aumentare degli ettari coltivati a cotone BT si è avuta una leggera flessione di tutti i suicidi specifici in quelle stesse regioni. In particolare le due regioni più produttive di cotone BT ammonta a circa 2.300 suicidi l'anno, quelle di contadini, ma queste non sono ascrivibili al cotone BT, anzi probabilmente l'introduzione di una coltivazione più redditizia ha causato una flessione del numero totale dei suicidi di contadini indiani. In realtà, se ben capisco, lo studio non esclude che in certi casi il cotone OGM abbia portato a dei raccolti non buoni e che quindi abbia portato anche alla disperazione alcuni contadini, però sostiene che nella grande maggioranza dei casi l'introduzione del cotone resistente è stata vincente e che quindi i suicidi sono dovuti a una miscela di cause diverse e fra l'altro vanno inseriti in un contesto in cui purtroppo i suicidi sono frequenti, è così? È esattamente questo il caso, non si possono escludere casi personali, individuali, minoritari, ma parlare di 100.000 contadini è del tutto falso e anzi non rende conto del fatto che per gli indiani è stato invece un grande successo, dimostrato appunto dal fatto che hanno aumentato di 100 volte in 5 anni le superfici dedicate a questa coltivazione. Ecco, ma è vero che i semi OGM sono sterili? Perché in realtà si dice che uno dei fattori che più conduce alla disperazione ai contadini è il fatto che ogni anno sono obbligati a ricomprare le sementi dalla ditta produttrice, che poi fra l'altro nel caso del cotone è la Monsanto, e questa sarebbe una delle cause di disperazione, il fatto di dover ricomprare ogni anno delle sementi anziché utilizzare parte del raccolto. Dunque non esiste al mondo in commercio un solo seme sterile, quindi tutti i semi OGM in commercio sono fertili, ovviamente sono più produttivi quelli fatti dalle ditte sementiere, ma in particolare per la vicenda del cotone è così falso che siano sterili che i contadini indiani hanno riprodotto i semi dal cotone e li stanno esportando illegalmente in Pakistan, che formalmente non coltiva cotone OGM e che invece sappiamo benissimo che già ha grandissime estensioni di coltivazione illegale, transgenico, piratato dai contadini indiani che lo stanno riproducendo per poterlo esportare. Un'ennesima falsità che però riesce a filtrare in maniera strana attraverso i mezzi di comunicazione. Ringrazio Roberto De Fez, ricordo che con lui qualche tempo fa parlammo del fatto che nessuno degli OGM attualmente in commercio è veramente studiato per combattere il problema della fame del mondo, però penso che faremo presto un aggiornamento perché forse in questi mesi qualcosa è cambiato, vero? Qualche cosa sta cambiando e per fortuna la ricerca pubblica cerca di chiudere i varchi lasciati abbandonati dagli interessi delle multinazionali. Bene, riparleremo presto. Grazie Roberto De Fez, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Il gusto del cibo di cui ci nutriamo è un fenomeno abbastanza complesso, basato sull'azione di diversi recettori che agiscono nella cavità orale e nasale. Il piacere o il fastidio, naturalmente, sono attivati però da un meccanismo di base che presiede a tutto. la masticazione. Se non mastichiamo e inghiottiamo rapidamente, lo sappiamo, qualcosa si sente, ma è molto meno che con una lenta degustazione. Però non troppo lenta, altrimenti intervengono altri fattori degradanti del gusto. Un gruppo di ricerca francese della Scuola Nazionale per l'Ingegneria del Cibo e dell'Agricoltura si è lanciato in un'impresa singolare. Hanno costruito una bocca artificiale con tanto di salivazione, denti, erogatori d'aria, guardate che il respiro è fondamentale come gas additivo per il cibo, e hanno pure progettato nella bocca artificiale un meccanismo rotatorio che simula la lingua. Non pensate a un robot che ha la forma esatta di una bocca, in realtà è uno scatolotto cubico con vaghi riferimenti formali alla nostra bocca, ma che conta non è la somiglianza esteriore, ma quella sostanziale, e qui pare che la cosa sia riuscita. Il marchingegno sta entrando in sperimentazione in queste settimane, è dotato di sensori che raccolgono campioni di fluidi emessi durante la masticazione. Infatti, appunto, quando mastichiamo, rompendo il cibo, varie molecole del cibo stesso si liberano e sono queste che raggiungono i nostri sensori. Ma la loro quantità è direttamente regolata dalla intensità della masticazione e dal tempo che esse stanno a contatto con saliva e respiro. Conclusione: i ricercatori francesi vogliono variare in molti modi la masticazione, da una parte, perché capire quale sia la migliore. Dall'altra, però, vogliono anche arrivare a individuare forme e componenti del cibo che possano suscitare le maggiori piacevolezze. Cambio argomento e vi parlo di una scoperta molto strana, la cui descrizione possiamo però premettere che siamo davvero entrati nell'era delle nuove energie. Non che nuove strategie siano già applicate largamente, anzi manca ancora un sacco di roba da fare, però sembra che l'attenzione sia decisamente in pieno sviluppo. Un gruppo di ricerca statunitense, che però si è trasportato in Patagonia dalla Università del Montana, ha trovato laggiù, in fondo all'Argentina, un fungo che ha soprannominato Mico Diesel. Mico, come sappiamo, è un prefisso che rimanda ai funghi e diesel rimanda ai combustibili. È così. Il fungo è stato trovato nelle foreste della Patagonia prelevando diverse specie vegetali e fra queste una serie di campioni nelle vicinanze della specie arborea detta ulmo. Proprio nelle cavità di questi alberi i ricercatori hanno trovato dei funghi che producono gas. Analizzandoli si è ricavato che questi gas sono una miscela di molecole che normalmente, e pensate un po', si trovano nel petrolio grezzo. A questo punto bisognerebbe capire come utilizzare questa scoperta. E qui devo dire che quanto dicevo all'inizio di questa notizia era un po' eccessivamente ottimista. Chissà, infatti, quanti funghi bisogna coltivare per recuperare un barile di combustibile. Forse però non è l'organismo, ovvero il fungo, l'oggetto su cui concentrare l'attenzione. Forse la cosa importante è il meccanismo genetico, perché è probabile che vi siano dei specifici enzimi che trasformano la cellulosa del vegetale in quello che si è definito Mico Diesel, e si è anche già verificato che questi funghi crescono bene nella cellulosa. Questo fa sperare, perché la cellulosa è forse la molecola più diffusa nel nostro pianeta. Quello che avete ascoltato è quanto avevamo da proporvi per questa puntata di Möbius. Buona serata a tutti e a tutte, alla prossima settimana.